This Is Not an Exit. Digressioni musicali dalla fine del secolo breve. Questa è una puntata sperimentale di This Is Not an Exit. Non siamo in diretta, ma siamo in registrato, sempre giovedì sera alle 21 su Radio Città del Capo, ma stiamo registrando da 4 quarti qua in Via del Pratello. Sono in compagnia di DJ Balli, alias Balli Corgan, alias Riccardo Balli. Beh, intanto buonasera. Ciao, piacere essere qua, grazie, anzi se Maometto non va alla montagna, la montagna va da Maometto, come dicevamo. È un esperimento, un po' perché Balli non poteva venire in radio. Allora abbiamo fatto appunto di necessità virtù e abbiamo fatto questo esperimento su musica che dire sperimentale è poco. Stiamo ascoltando quindi Dub di Michael Jackson, cioè la versione riletta al contrario, rivisitata, stuprata, malmessa e quant'altro di più, che John Oswald, compositore canadese e plagiatore di musiche da altri, nonché teorico di questo discorso del plagio, ad opera d'anni di Michael Jackson. Sì, perché questa sarà la tematica della trasmissione, che è legata a questo libro che si chiama Frankenstein Goes to Holocaust, che è un libro che intende proprio indagare questo, la saccheggiofonia, ovvero i plunder phonics, come da to plunder, saccheggiare, phonics in inglese, cioè il fare musica utilizzando sostanzialmente, fregando musica da altri. Questo è uno degli esempi più storicamente accettati universalmente, questo del compositore canadese John Oswald, di cui in Frankenstein analizziamo abbastanza in profondità l'opera, considerandolo come un padrino di questa saccheggiofonia. In realtà lui non ha inventato niente. La saccheggiofonia, come indicato poi nel libro, esisteva già addirittura ai tempi della musica sinfonica, capito? Ha soltanto usato quello che è il nome che è diventato più di moda. Poi adesso di saccheggiofonia, per esempio, non si parla più tanto, ma si parla di mashup. Questo è il termine comune per indicare questi Frankenstein sonori, perché io nel libro appunto cerco di portare avanti una nuova idea. Basta questa storia della saccheggiofonia, basta il discorso di mashup che sa troppo di MTV, parliamo invece di Frankenstein sonori, quindi di mostri sonori. Quindi l'idea mia è di partire dal romanzo della Mary Shelley, no? Quindi in seno al romanticismo, quindi non c'è opera più lontana da un discorso di saccheggio e di plagio dell'arte, ma è un lavoro che celebra l'unicità dell'opera d'arte. Soltanto che non viene fatto un homunculus, un mostro, viene fatto un mostro sonoro, un po' come io faccio il DJ, no? Che spazio dalla gabber alla musica hawaiana mettendo tutto il contrario di tutto. John Oswald era un compositore serio, è uno che aveva fatto il conservatorio, penso aveva studiato addirittura composizione, era canadese se non sbaglio, e suonasse il sax o il clarinetto. Poi si è messo a fare questa sperimentazione, sì, come dicevi tu, anche nella musica classica c'era il saccheggio, c'era addirittura chi si autocitava, penso a Mahler, ma tanti altri, ed era una cosa normalmente accettata. Verso la fine degli anni 80, che è questo periodo, 89 circa, nostro periodo di lezione, diventa illegale per John Oswald, ma anche per quelli che abbiamo in sottofondo, Ghetto Boys. We knocked on the door. 1990, we beat on the door. Now it's 1991. We finna kick this motherfucker in. Let's talk about a scandal. The album Jeffrey found too hot to handle. Fucked up the minds of you and yo. The last LP from the Ghetto Boys. Can you believe those hypocrites will distribute guns and roses but not our shit? And they say we're racist act. Ain't that the pot calling the kettle black? Man, fuck them hoes. We got new partners and got shit done regardless. Cause our fans are ever ready down to die hard. Around the globe, the fifth war. I read a news report. Some lawyer in Florida wanna take us to court. Somebody tell that country ass hick to go suck a dead man's dick. You scream obscenity, but it's publicity. You want hoes, so don't act like you don't know. Better fuck with somebody else before you get popped. Cause we can't be stopped. People are frightened when they hear the boys, cause we ain't just a bunch of noise. None of that me rapping. We let your motherfucking ass know what's happening. Bitches get raped, niggas get murdered. Adult fucking kids and numbers unheard of. It's on the news every hour. Why can't I talk about it? Everybody seem to be after us. Even the manufacturers wouldn't press our disc. You know it wasn't fair. Fuck everybody who worked there. And every motherfucking reporter across every motherfucking border. You said the album wasn't coming out, fighter, but when it did, you couldn't find your typewriter. Keep letting the government dictate what you hear. Next, they'll put stickers on your ears. Even with that move, we got them in anguish. Cause we'll learn sign language, we can't be stopped. Willie D is the gangster love. Some of my friends sell drugs. I sell knowledge that you can't get a hold. Cause the game is sold, not told. Promoters took away our tour. Negative press made them insecure. And you wonder why you never see a video of the boys from the ghetto. No radio, talk show, or magazine where we in. And we still in the top 10. You can't beat that with a bat. The hammer can't touch that. We're from the motherfucking south. Now what was this bullshit about? That we had to be from Cali or New York. Anybody can make it, got heart. Trench coats and gangster hats got my back. Any nigga around me got the pack. So come on, motherfuckers, come on, motherfuckers, fuck! We can't be stopped! Siamo saltati veramente di palo in frasca, no? Da Michael Jackson rifatto, rubato e vagamente stuprato da John Oswald a i Ghetto Boys. Cosa c'entrano? No, c'entra, perché in Frankenstein Goes to Holocaust si parla, appunto, si cerca di inserire questo discorso della saccheggiofonia secondo parametri diversi, quelli del mostro sonoro, del Frankenstein sonoro. E il rap, in una sua corrente estremamente minoritaria, che in Italia anche pochi fanno fatica a riconoscere, ha esplorato nel passaggio tra gangsta rap, che alzando il tiro è arrivato proprio ai margini della mostruosità più totale, è entrato proprio in chiave di mostro sonoro, di horror rap, di death rap, rap mortale, orrorifico. Quindi, come dire, nel libro ci si confronta con l'alito greve del cadavere messo in scena dai Ghetto Boys, che in questo sono i Ghetto Boys, sono un gruppo della rap a lot classica, quindi rap, che è stato seminale per segnare il passaggio tra gangsta rap e horror rap. In pratica, il gangsta ci aveva lasciato con uso il linguaggio ovviamente del gangster rap, con le bitches a tirare cocaina dalle puttane nella bitches. Bene, con l'horror core e i Ghetto Boys lo step è successivo: usciamo dalla macchina, ci sparano in testa, il cervelletto schizza fuori, arriva un corvo e lo lecca. Siamo in chiave di horror core e dei testi che qua con Matteo, che comunque Matteo Cortese, collaboratore di Bastonate, ormai ha un altro nome, e no, perché c'è un refuso sul suo nome divertente, Matteo Cortese, adesso ci piace, è il Cortese Matteo, che scrive, è uno degli autori del libro, è mio, ma ci sono una serie di personaggi fidati, delle lanterne nell'oscurità dell'underground, diciamo certificate dalla mia conoscenza diretta, che vanno da Vittore Baroni, che ha scritto un'ottima prefazione, appunto a Matteo, che collabora a Bastonate, e che poi vabbè ha parlato a lungo nel libro dei KLF, eccetera eccetera, e che però ci introdurrà lui i prossimi plagi. Esattamente, il pezzo che andremo ad ascoltare è il pezzo che ha causato il tracollo anche finanziario di un'etichetta importantissima ai tempi come la SST, il pezzo dei Negative Land, l'hanno ottenuto neanche campionando, riproducendo letteralmente un pezzo degli U2 e parlandoci sopra, senza naturalmente dichiarare questo plagio. Gli U2 se ne accorsero, fecero causa alla SST, la vinsero, dovettero venire risarciti di una cifra molto alta, adesso non ricordo di preciso l'entità, ma si parla comunque di milioni di dollari. L'etichetta fallì e questa fu la fine di una delle etichette più famose e importanti, soprattutto degli anni 80. Ha avuto sotto contratto tra gli altri Asker Du, Black Flag, Minutemen, e questo, quello che stiamo per ascoltare, è il pezzo che mandò l'etichetta alla rovina. Sì, e in Frankenstein Goes to Holocaust cerchiamo di aggiornare la situazione. Infatti, parlando di questa situazione, parliamo di plagiarismo al cubo, perché i Negative Land, dal loro sito negativeland.com, nel 2015 hanno messo a disposizione per un remix le tracce aperte del disco. Cosa c'è di più normale, no? Una pratica consuetudinaria adesso, no? Il problema è che il disco è il disco degli U2, cioè, quindi loro hanno dato le tracce aperte del disco, cioè, quindi siamo a livelli di plagiarismo non al quadrato, al cubo, ecco. Quindi in Frankenstein Goes to Holocaust celebriamo quindi i Negative Land, come dire, che imperterriti continuano a violare il copyright. E la morale di tutto questo è molto bella, perché tu sei qua come certificatore e legittimatore di qualcosa che è totalmente illegale. Production or what? What did you say? Kind of production. There are all sorts of possibilities you could do. You know, a little spoof on something. This is also nothing new. Yeah, get the stuff together, no problem. Come on, let's do it. No. Oh well. This is American Top 40. I have climbed the highest mountains. Yeah, I believe it's the weather, man. And guess what? Where you at? I've run through the fields only to be with you. Yep, with you. No the first top 40 hit. And guess what? For the Irish band from Dublin who call themselves U2. I have run, I have crawled, I have scaled these city walls. Yeah, that's really great. I can't believe I did it, but nevertheless, I have done that for you. That's the letter U and the numeral 2. Only to be with you I've done all these things. Yeah, with you. The fat one, that's it. You're the fat one, and I want to be with you. What's the matter? Can I say, why was it changed here? But, on the other hand, I still haven't found what I'm looking for. That's the letter U and the numeral 2. Maybe they'll make it as a junior. But, on the other hand, I still haven't found what I'm looking for. That's the letter U and the numeral. Nope, definitely not. Two. I haven't found it. They're kind of like I just can't seem to find it. That's the letter U and the numeral 2. Nope, definitely not. I haven't found it. That's the letter U and the numeral 2. Come on. And here's what else I've done. Come on, let's see what we can find. I have kissed honey lips, felt the healing in her fingertips. I've even done that. That's the letter U and the numeral 2. While I was doing that, you know, all the kissing on the honey lips, it burned like fire, and it reminded me of cheap melting plastic, the kind that makes little clouds of white vapor gas, and then when it catches on fire, makes those little strings of black smoke with little ashes attached to them. That's how it was kissing honey lips. Why are we doing it? Why have we changed something? I still haven't found it. The last thing we want to do is sound like anybody else. So, if you that's two, the letter U and the numeral 2. You've got to challenge, you know, musically speaking. You know, you've got to find new sounds on the guitar. You've got to find a new way of approaching a 4-4 beat. You know, rock and roll still needs innovation. You know, and there's a lot out there. Someone has said, get a great ideal, a great purpose, marry it, and raise a family. What the hell's going on here? Bono. Yeah, I should be saying American Top 40 is heard. Are you two married to a great idea? It was every week American Top 40 is heard. Everything is topsy-turvy. Is it to just screw up things? Marriage is not you two living for each other. Because I can't say this. You know, let's see what we can find. Everything's such a mess. I thought we were almost finished. It is you two uniting to live as a team for this great purpose. Ponderous? Is Don on the phone? Hi, Casey. I had the book right on the speakerphone for you. Now, I just got word from Mr. Friday that we can't pay you anything for this until our label sends us some of the money of yours. So this will have to be benefit terms. Golly, Miss Molly. Well, I gotta catch a plane. Give my regards to the weatherman, and you too. You know, they do this to me all the time. I don't know what the hell they do it for, but... Yeah, the guy that's talking to the Cerebath, they're bringing back. Now, Megan, and I also want to know what happened to the pictures I was supposed to see this week. Hey, sewer mouth. KCA, I'm on a frequency. I bet you can't find me. We've got the fly band out there. That's the letter 2 and the numeral 2. I was a worm in the night. And cold as a stone I was. All right. Okay, let's try it, okay? And I believe in Kingdom Come. Okay. And all the colors bleeding into one big mess. Okay. I'll probably have to get out the STP cleaner on that one. Maybe the 409, but I'm not sure yet. Bye. That's the letter U and the numeral 2. I have the envelope here. And you broke the bond. You broke the goddamn bonds, you loosened the chains, you carried across, and my shame, shame, so much shame. Why have we changed something that we've been doing all along? You know, I believe it. All right. No, I guess I don't believe it. I don't know what I'm talking about. This is blowing. But nevertheless, I still haven't found it. That's the letter U. I haven't found what I'm looking for. I haven't found it. I can't I'm say it again. I'm looking for it, but I don't even know where it is. And the numeral, too. I don't even really know anything anymore. I just... Yeah, it doesn't sound right either. I don't really know what to do. All right. Or do I? Okay, let's try it, okay? But I still haven't found it. That's the letter U and the numeral, too. That makes sense, but I still haven't found it. I'm looking. I'm looking for it. That's the letter U and the numeral, too. I just don't know much of anything. Maybe I ought to be shot point blank in the stamper tonight. That's the letter U and the numeral, too. Is that the way I say that? I don't know how to say it. You too. I still haven't found what I'm looking for. Don't be triggered. There it is. We're counting down the 40 biggest hits in the 50 states. Hey, sewer mouth, we're gonna get you. This is American Top 40. This is American Top 40. God, I hate that. We come out of that, and then I gotta say the goddamn American. I hear the American Top 40 jingle, and I say this is American Top 40. Let the goddamn jingle ID this show. I ID the show whenever there isn't a jingle, don't I? The winner is... Don't I do it between every goddamn record that we play? E quindi, sempre qua dal 4 quarti, no? E stiamo parlando di Frankenstein Ghost Holocaust, uscito per Agenzia X nel 2016. E libro che si occupa, recitando il sottotitolo, no? Mostri sonori, hyper mashup, audio espropri. Il concetto di mashup è quanto di più di moda e anche stereotipato si possa parlare. È un concetto proprio fortemente da MTV. È un concetto che a me non piace. Quindi, se parlo di mashup, ci devo aggiungere l'aggettivo hyper, iper mashup. Cioè, in un certo senso, che questa attitudine ai blob sonori, al centrifugare le più diverse componenti, deve essere come dire, posta all'estremo limite. E adesso vi leggo dei Frankenstein sonori, tipo remixati, no? Si va da SoundCloud Debussy a Johann Sebastian Bach, a Ludwig Beethoven, ad Anton Bruckner, a Maurice Rave L, e così andiamo avanti. C'è ovviamente MC Pavarotten, Fatboy Shit, Bob Sinclair, Frank Sinanthrax, Abba Gabba, questo ci sta, immancabile, David Bow Wow Wowie, i Blondie Sabbath, Jovi Bon Elton, Public Enya, immancabili, Yellow Bellafonte, Kate Moss, Kylie Minogue, Jim Morrison, sarebbe un Jim Morrison gym, nel senso di gym, di palestra, quindi palestrato, Rave Casadei, e Filth Collins, Filth nel senso di father I'd like to fuck, Romano Prodigy, i Napalm Death, i Napalm Sordi, Def come sordo, ecco, Dub Spencer e Transil, questo è un sound system dub realmente esistente, e poi io potrei andare avanti con queste cazzate per delle ore, nel senso che abbiamo tre pagine di questi Frankenstein sonori, cioè l'attitudine è quella, capito, del mescolare, di creare Frankenstein sonori, attaccare, fare a pezzi nell'obitorio della musica cadaveri musicali ed attaccarli nei modi più singolari, fare un calcolo per ogni rene, concedimi la battuta, e attaccare vie biliari a vie intestinali. E proseguendo nell'ascolto di mostri, cadaveri sonori, torniamo a Way di John Oswald. Yeah. Dicevamo, questa era Way da Plunderphonics, di, non lo diciamo mai, ma in questo caso, ragazzi, non si è rotto niente. I nostri lettori CD sono perfettamente funzionanti, non è un lettore CD che salta e che manda in loop vecchi brani dei Beatles, no. È John Oswald che ha prese verso la fine degli anni 80, e non era così facile come adesso, non tutti avevano il computer, prese vecchi brani dei Beatles e li rimescolò da par suo, in maniera totalmente concettuale e soprattutto provocatoria. Quando risolvevano le leggi anti-copyright? E più che altro, quando è che furono? Mi sa che proprio in questi anni furono ulteriormente ristrette, cioè la durata del campionamento legale divenne risibile, proprio grazie e soprattutto a causa dell'ascesa dell'hip hop. Il discorso del campionamento, mi sembra che la limitazione fosse dei 7 secondi, quindi tempi da record sportivi, ecco, diciamo. E dato che di record sportivi stiamo parlando, mi sono divertito in Frankenstein Goes to Holocaust, che in lingua italiana direi che è uno dei pochi testi, forse non so quanti, dedicati al discorso dei mostri sonori, nel senso della saccheggiofonia, dei blob sonori. Mi sono divertito a imbastire questa Olimpiade con tanto di medaglia e podio, medaglia d'oro, argento e bronzo, per i dischi fatti fregando più o in maniera, diciamo, con maggiore qualità, dischi di altri. E l'oro è un disco che secondo me non è troppo conosciuto, è questo disco di Novelty Record, che sono dei dischi anni 50, spesso fatti da speaker radiofonici, che accompagnati dalle hit del momento inscenano delle sorte di farse. In questo caso inscenano riplagiando il famoso discorso dell'invasione aliena di H.G. Wells. Questi due speaker radiofonici, campioni di questi Novelty Records, praticamente commentano l'arrivo degli UFO contrappuntandolo con i anni 50, causando un casino clamoroso, perché un sacco di etichette discografiche si sentono violate e li portano in tribunale. Che però, sembrava, rispetto, hai parlato di tempi oscuri, fine anni 80, con John Oswald che si vede confiscare le opere, appunto su Michael Jackson, eccetera, confiscare e distruggere, invece là va bene, e addirittura la corte dà ragione ai due autori del disco, che si chiama The Flying Saucer, cioè il disco volante, e dice che addirittura questo disco serviva ad incrementare le vendite. Gli abbiamo dato l'oro perché sono stati, diciamo, i primi. Poi c'è un classico, un disco totale di DJ Shadow, Introducing, che è un disco in cui adesso c'è Matteo anche qua di fianco, come dicevamo, ha un livello di umanità di suono, perché ovviamente la saccheggiofonia, il mostro sonoro, sa di freddo, è un'operazione chirurgica, attacchi e stacchi dei pezzi. Bene, sto disco è fatto in maniera così magistrale da DJ Shadow, che suona anche assolutamente molto molto musicale. Invece la medaglia di bronzo l'abbiamo data invece al già citato John Oswald, con Plexure. Thank you. 3 days later, they dug me out. I never saw Arthur again. But I'll bet wherever he's gone, he's having a damn good time. Siete sempre in registrato su This Is Not an Exit, Radio Città del Capo. Questo, anche questo giovedì sera siamo in compagnia di, come avete mai capito, di DJ Balli, che ha fatto un nuovo libro, ce ne sta parlando diffusamente, e di una pratica, quella del plagiarismo, che alla fine degli anni Ottanta conosce un vero e proprio boom, grazie all'hip hop, grazie a musicisti concettuali, insomma diventa una specie di fenomeno sotterraneo, ma fino a un certo punto. Ci sono stati anche dei fenomeni tipo KLF, poi ne parleremo magari più avanti in altre puntate più diffusamente, che andarono addirittura in classifica e andarono sui giornali, fecero un grandissimo clamore. E come, direi proprio, hai fatto l'esempio proprio perfetto, cioè loro hanno proprio usato la società dello spettacolo per i loro fini sovversivi, ecco. Ma dei KLF ci piacerà sempre con il cortese Matteo, che ormai è il mio innegabile alter ego, nonché amico qua di fianco a me. Ci piacerà andare in dettaglio, perché lui li ha seviziati a dovere, perché è stato proprio questo il ruolo di Matteo in Frankenstein Goes to Holocaust, proprio andare sui Copyright Liberation Front, come mi piace chiamarli. E però appunto c'è anche molto gioco in Frankenstein Goes to Holocaust, e quindi abbiamo sentito un po' di Frankenstein sonori da bar, e abbiamo parlato di Olimpiadi, e abbiamo anche un Guinness dei primati. Sai che c'è la voce su tutto, no? Chi fa il rutto più lungo, chi fa il salto più lungo, bene, chi fa il disco soffiando più musica di altri. E il Guinness dei Promati non è aggiornato, perché viene su questa voce anche attualmente nel Guinness dei Promati 2015, non so se è già uscito il 2016, ma questa voce è dominata da DJ Shadow, che per carità ha fatto un grandissimo disco, ne abbiamo parlato prima, End Introducing, però in realtà esistono dischi, anche parecchi, fatti campionando molta più musica, e due di questi, quindi io ho scritto questa errata corri di DJ al Guinness dei Primati per aggiornare le voci la voce del qual è il disco fatto campionando più dischi di altri, queste sono dritte di Matteo, sono venuti fuori due nomi di cui ci parlerà lui. Esatto, uno di questi è Reale, un disco degli Avalanche, un duo di Melbourne, il cui disco unico Since I Left You finì addirittura in classifica, un disco ad ascoltarlo molto orecchiabile, se vogliamo anche commerciale, e quello che è interessante è la pratica, è stato ottenuto assemblando un sacco di campionamenti diversi, e infatti più che un disco è un monumento all'Akai S2000, uno dei campionatori più utilizzati ai tempi e più celebri e celebrati appunto da questo disco. Sul numero di campionamenti ancora è aperta la questione, c'è chi dice 900, chi 1000, chi 3500 addirittura. È interessante la modalità di acquisizione di questi campionamenti. Il duo ha rastrellato per degli anni i negozi dell'usato, i mercatini, anche traslocando cantine, solai, appartamenti e estrapolando i campioni della più svariata natura. In realtà l'effetto complessivo è molto orecchiabile, e l'abbiamo anche ascoltato prima, tra l'altro avete potuto constatarlo direttamente, e sembra proprio un unico concept che ricorda anche quelle trasmissioni di MTV americana negli anni 90, in cui il programma si chiama The Grind, in cui la gente in costume da bagno ballava musica generica a bordo piscina in posti improbabili. E tra i vari dischi campionati c'è anche Holiday di Madonna, irriconoscibile, perché comunque non hanno pagato nessuno per acquisire i diritti, sono rimasti evidentemente nella soglia di legalità consentita, che era, mi pare, 7 secondi. E questo è uno. L'altro, di cui non si capisce ancora se la natura sia reale o un fake, anche abbastanza divertente, è il disco di Autodigest intitolato A Compressed History of Everything Ever Recorded. Il titolo parla chiaro, il tentativo dichiarato è quello di comprimere in un unico disco qualsiasi cosa sia mai stata registrata nella storia. Questo è abbastanza come dire, impossibile da verificare, però l'effetto complessivo è di un blob sonoro di puro noise da cui ogni tanto spuntano fuori dei campionamenti riconoscibili, ma sono una minima parte. Più che altro è un gran casino e basta. Sì, direi che è stato chiarissimo proprio Matteo. Io lo considero questo disco un esercizio di stile sulla compressione. Sembra di essere finiti nel laboratorio del CERN di Ginevra, tra buchi neri e protoni, capito, in cui smiagolano suoni di ogni tipo. Ma poi la cosa più interessante ancora per me è il volume 2 di questo Compressed History of Everything Ever Recorded, in cui pretendono di aver registrato tutti gli applausi alla fine di ogni live registrato nella storia della musica. Nella pratica il disco, che tra l'altro è ascoltabile anche su Bandcamp, quindi non dovete fare nessuno sforzo per acquisirlo in qualche rivendita online o in qualche mercatino dell'usato, è un gran casino pure quello, ma più che altro di battimani, ci sente un'ora di battimani fondamentalmente. Sì, sono cose che non si capisce, sono delle barzallette o no. L'etichetta è anche un'etichetta, si chiama Cronica di Porto in Portogallo, che è un'etichetta anche blasonata per la musica di ricerca sperimentale, e ha fatto uscire queste due cose qua che insomma, non si sanno bene come collocare, se trascendo fantascienza. No, si collocano nell'arte concettuale contemporanea. Sì, ecco, forse l'hai detta. Mother Earth is pregnant for the third time. For y'all have knocked her up. I have tasted the maggots in the mind of the universe. I was not offended. For I knew I had to rise above it all. Or drown in my own shit. So then you have nothing to give him. The baby has no father. He ran out of the mama. So raise him as a cannibal to be like Jeffrey Dahmer. Your life is really worthless. You live and then you die. Your gold forgotten body's rotten. Then you wonder why. And then you live in doubt. Can you live or live without the fact you know you can't afford to feed another mouth? Your head is steady spinning. The devil's steady grinning. While you were steady sinning from the very first beginning. Is it a boy or girl? I think I should refer. You should terminate it because it's a lousy world. Your life is on the line. You're out your fucking mind. You gotta do it soon cause you're running out of time. It's just another embryo attached to an umbilical. You can let that baby grow, but I'd kill it though. Kill the fetus. Fighting for his life. Mother Earth is pregnant for the third time. Mother Earth is pregnant for the third time. The baby's premature. The mother is a whore. Contemplating suicide. So what you waiting for? I think I heard him kicking, but that's a normal state. Jam a hammer in your asshole until your water breaks. You better use some caution. Giving yourself an abortion. That's the only way to solve a suicide solution. So here's my contribution, my suicide solution. You play the game of death, but then you can't win for losing. You wonder if you need this, or should you kill the fetus? Life is just a waste, so then you oughta just delete this. Problem to society, society's a problem. My suicide solution is a 38 revolver. I'm your problem solver, your life is full of horror. Some are born today and some are die tomorrow. Vagina tissue's torn, your pussy's kinda worn. I think I oughta warn if you're having a newborn. You're in the wrong perspective, there is one contraceptive. Your MPT is positive, so you can't let that baby live. It's just another embryo attached to an umbilical. You can let that baby grow, but I kill it though. Kill the fetus. There are seven boyfriends who fuck good and that's all. The 17th boyfriend had a dick. The 100th boyfriend hypnotized my vagina. The planet's really fucked, so now you're kinda stuck. You should've thought about it before you bust a nut. It is a lousy world, I live a lousy life. I think I ought to stab you in the stomach with a knife, or push you down a flight of steps until you fall and break your neck. Did a little damage, can you manage a miscarriage? Life is not a choice, death is the alternative, or should you let it grow up in this fucked up world that we live in? These are the consequences, add one more to the state census. Born or die in poverty, so tell me what sense is this? It's just another embryo attached to an umbilical. You can let that baby grow, but I'd kill it though. Kill the fetus. I've been through this before, baby. Cool my hot ass down. Kill the fetus. In our same world. Mother Earth is pregnant for the third time. Cool my girlfriend comes along, he'll think of me when he fucks her. When another number girlfriend comes along, he'll think of me when he fucks her. When another number girlfriend comes along, he'll think of me when he fucks her. Sempre This Is Not an Exit, questa è una puntata speciale, lo ricordiamo, non siamo in diretta ai nostri studi, siamo qui al 4 quarti in Via del Pratello assieme a DJ Bali e il suo nuovo libro, ricordate, Frankie Goes to Hollywood? Adesso abbiamo Frankenstein Goes to Holocaust. Molto meglio nei nostri tempi, nel nostro stile di trasmissione, ci entra perfettamente, anche perché parliamo di un fenomeno conosciuto all'epoca, ma adesso in questi accenti caduto nel dimenticatoio. Ricordiamo, c'era la versione colta, quella di John Oswald, quella di KLF, che lo facevano per provocazione, ma c'era anche una versione molto più spontaneistica, che era quella dei rapper, gente che non aveva certo la cultura accademica di John Oswald, anzi veniva da situazioni allucinanti di ghetti neri. Abbiamo appena ascoltato Esham, che è un rapper assolutamente poco conosciuto, ma veramente greve, cattivo, pesante. Fin da questo inizio di anni 90 faceva dei dischi veramente violenti. Il titolo del disco si chiama KKK Kill the Fetus, uccidi il feto, con 3K del Ku Klux Klan. Provate a immaginare cosa poteva evocare. Ma non solo, non penso che avesse molta idea di fare un'operazione concettuale, anzi non ce l'aveva per niente, semplicemente non aveva la benché minima volontà di pagarsi le royalties per quello che campionava. E tutto il rap di base, quando iniziò, erano tutti campioni. Qualcuno poteva permettersi di pagare le royalties, non si è mai capito in che modo. Di sicuro non Esham, che era veramente povero e pur di suonare se ne sbatteva. Sì, assolutamente. Mi sembra interessante quello che dici. Come nel rap, nella cultura hip hop, cioè hai un bel da parlare di illegalità, di violazione del copyright. Qua è una cosa normale, cioè l'utilizzo, cioè è proprio nel codice del DNA del genere, l'utilizzo di campioni, di brandelli, di cose di altri, recontestualizzate in una nuova struttura musicale, sono la parte fondante, la cifra artistica della qualità del DJ, del rap, hip hop e anche del rapper, capito? E quindi cioè abbiamo un bel da dire anche alle operazioni dei Negative Land, eccetera, eccetera, no? Operazioni concettuali che girano e lo violano intorno al copyright. Qua abbiamo semplicemente una pratica portata avanti che ha una sua legittimità artistica totale, come abbiamo sentito. Esatto, è la cosa più divertente, secondo me, sta nel fatto che le basi musicali dell'hip hop nero, specificatamente del gangsta rap, siano state completamente assimilate da un gruppo di bianchi ebrei molto benestanti, i Beastie Boys. Hanno inventato loro la pratica del cut up e del campionamento applicato in ambito hip hop, e tutti i gruppi gangsta rap venuti dopo hanno rubato proprio la pratica di campionare e ricontestualizzare i pezzi molto, anche molto famosi, renderli irriconoscibili e trasferirli in un ambito di criminalità e di sì, malviventi, no? Erano soprattutto il primo gruppo di KRS-One, i Boogie Down Productions, e comunque venivano dopo i Beastie Boys, e la pratica è stata perfezionata e, se vogliamo, anche proprio inventata da loro. Name Michael Diamond. No, mine's Clavin. From downtown Manhattan, the village. My style wild, and you know that it's still it. This old bag's rapping, and you're doing the buzz. Shake your rope. Bene, gentili ascoltatori e ascoltatrici, voi penserete, siamo in una puntata sul plagiarismo e ci fai sentire gli Smashing Pumpkins, ma gli Smashing Pumpkins non usavano neanche il campionatore, quindi? Sì, beh, tu conosci adesso Time Stream, rientra nelle date di Mastex 1993, quindi... Il This Is Not an Exit è perfettamente covered, 93. Billy Corgan, quindi, si attacca col 1993. Billy Corgan è un progetto mio legato al fatto che la gente, ma ti dico per anni, anche adesso, continua a dirmi: oh, sai che somiglia a Billy Corgan? Oh, a prendermi proprio in giro in città, in Italia, per Billy Corgan proprio. E allora ci ho ricamato sotto un progetto, che è appunto un progetto, cioè, chiamo Billy di nome, no? Billy Corgan. poi con questo mio amico fotografo Marcello Galvani, romagnolo che si occupa di fotografia, ci siamo iniziati a divertire a fare degli scatti in cui io proprio mi prendo molto sul serio come Billy Corgan. Ho fatto questo disco Picture Disc, che è un totale falso, musica harsh noise con dei campionamenti buttati lì di Tonight Tonight e 1979, e Picture Disc con tutte le foto con me acchittato alla Billy Corgan, che è il mio contributo, cioè diciamo il libro l'ho scritto io, Frankenstein, però l'unico contributo artistico, credimi, di plagi ne ho fatti parecchi, ma qua sono andato al di là, l'idea è proprio la creazione di un sosia, capito? E viene nel libro raccontata una vicenda in specifico, ecco, legata a questa cosa. Esatto, e che cosa riguarda questa vicenda? Ecco, il cortese Matteo è sempre meno cortese, perché io temevo questa domanda, e che è una lettera aperta a tal Angelica Guappi, e si tratta di un qualcosa di realmente successo, che è anche così imbarazzante se vuoi raccontare, però praticamente in questa situazione di Billy Corgan io andavo in giro a fare dei reading di poesia, spacciandomi per Billy Corgan. E l'evento era proprio questo, era una beffa legata sul fatto che in realtà non c'era Billy Corgan, poi c'era una performance, diciamo così, deflagrante. Ma la gente sapeva che era un fake, o la gente veniva credendo che ci fosse Billy Corgan? La locandina, le prime locandine quantomeno erano molto ambigue, no? Giocavano su questa ambiguità, no? Assolutamente, cioè Matteo dice giusto, perché io mi presentavo come appunto locandina in bianco e nero B. Corgan, quindi poi chiuse le prevendite, tra l'altro si ricorda tutto a buona memoria, ti sto parlando di cose del 2009 che ho girato, io l'ho portato in tutta Italia, da Palermo a Napoli a Torino, cioè come DJ Buddy non giro così tanto, a Venezia, a Milano, anche a Vienna, cioè l'ho portato in giro un sacco questo progetto Billy Corgan. E l'evento più devastante è stato proprio a Roma, perché lì non si è neanche tenuta la cosa, praticamente, insomma è difficile da dire, ma sono finito a letto con una tipa convinta che fosse Billy Corgan. E niente, e questa è nel 2016 è uscito il libro, 5 anni dopo, una lettera a lei che gli spiega in maniera simpatica, lasciami usare questo aggettivo, la cosa. Oh, Beh, siamo alla fine anche di questa puntata di This Is Not An Exit, una puntata quantomeno bislacca, diciamo sperimentale. Spero ci perdonerete eventuali imperizie tecniche, disturbi, insomma, non potete immaginarvelo, ma siamo un po'... ci siamo arrangiati su un desk da DJ, non abbiamo fatto dei mashup veri e propri, anche se abbiamo appena assistito al racconto di un mashup fisico. Non so quante persone possono raccontare di un mashup fisico, come ha fatto appena DJ Bar i nostri microfoni. Invece i mashup, il plagiarismo, il cut up, il campionamento, soprattutto in questa, in questo periodo che noi analizziamo, cioè 88, 89, 90, la fine degli anni 80, era reso possibile da uno strumento che prima Matteo ha buttato lì, ha accennato, si chiamava Akai S2000, era il campionatore per eccellenza. Non era un computer, era un'unità rack professionale molto costosa, con una memoria interna, una macchina veramente di altissima qualità, che pian piano, grazie anche all'interfacciamento del computer, ha reso possibile sempre più persone, all'inizio degli anni 90, fine 80, a pochi, perché era ancora piuttosto costosa, ma poi con l'avvento dei computer e la diffusione delle schede audio, questa fu una prassi alla portata veramente di chiunque. Esattamente, esattamente, cioè la tecnologia è l'elemento che ha permesso la vera e propria esistenza del Frankenstein sonoro, no? E il fatto che in quella sala operatoria, in quell'obitorio della musica, uso sempre questa immagine che il libro introduce, perché nel dibattito internazionale sulla saccheggiofonia l'idea del mostro sonoro non è mai apparsa come mostruosità. È come dire che il bisturi era governato da tecnologie accessibili che hanno permesso l'operazione. Io adesso ti parlo anche da produttore, no? DJ, produttore. Io personalmente mi ritengo molto più un DJ che un musicista. E il mio approccio alla musica è quello del cut and paste, del copia e incolla, cioè del utilizzare, mettere assieme, risentire, andare a orecchio, va bene, non va bene, in un fatto che sta tra l'empirico e lo pseudotecnico, ecco, in maniera molto artigianale. Tutto ciò è permesso dall'interazione che una tecnologia intuitiva mi permette. E certo, l'essere fruibile per una tecnologia come quella del sampling non era così scontata. Era, appunto, la KS2000 era nato per essere installato dentro lo studio di registrazione, magari anche di alto livello, per creare basi, effetti, magari per colonne sonore, insomma, roba professionale. Comunque, con questa chiudiamo anche questa puntata di giovedì 3 marzo di This Is Not An Exit. Siete stati in compagnia di DJ Bali e di Matteo per parlare di un fenomeno che proprio in questi anni vedeva un'esplosione e poi avrebbe portato a frutti insperati nell'hip hop, ma non solo, nell'elettronica. Insomma, cose come al solito sconosciute. Beh, insomma, buonanotte a tutti, grazie della pazienza, ma Balli vuole dire l'ultima cosa. Sì, no, ricordo come Frankenstein Goes to Holocaust è uscito per Agenzia X, se ce non c'è in libreria, ordinatelo. Hai anche quasi plagiato Frankie Goes to Hollywood. D'altronde, buonanotte a tutti. Bella. We'll be right back. volume.